tante cose cambiano, troppi ricordi che lasciano dentro te. Quel poco di inquietudine, cosa mi sarei aspettato? Sinceramente molte situazioni diverse. Chissà cosa farò, quante emozioni scoprirò, no. Basta solo un attimo, ti volti e vedi tutto da quel vetro opaco. Di ricordi provi a pulirlo, e intanto il tempo passa, perché scrive pure non ho più bisogno. Ma che sciocco, voglio solo sfogarmi. Mio Dio, che sciocco io. Tralasciando questa musica che suona per te, quel poco di inquietudine in me, ripenso ancora a noi, alle esperienze che non sai, no, non sai. Ma queste sono parole dritte in fondo al cuore. Basta solo un attimo, ti volti e vedi tutto da quel vetro opaco. Di ricordi provi a pulirlo, e intanto il tempo passa, perché scrive pure non ho più bisogno. Ma che sciocco, voglio solo sfogarmi. Cosa farò? Quante emozioni scoprirò? Basta solo un attimo, ti volti, vedi tutto da quel vetro opaco. Di ricordi provi a pulirlo, e intanto il tempo passa, perché scrive pure non ho più bisogno. Ma che sciocco, voglio solo sfogarti. Tanto tempo passa, perché scrivo, eppure non ho più bisogno. Ma che sciocco, voglio solo sfogarmi.